Gli amici della canonica la soprannominano Little Mina. Ce ne parla la madre di Caterina, Giuseppina Berselli. Ho cominciato a fare le prime riviste nelle sale parrocchiali e faceva dei successi da matti, questi ragazzi in piedi, buttare per aria la giacca, il berretto, quello che avevano. E mio marito, che allora c'era ancora, quando ha fatto le prime cose così nelle sale parrocchiali, si alzava da sedere, voleva, dove vai? Vado a sentire cosa dice il pubblico. Ma sta qui, dicevo, ma dove vai? E tornava sorridendo e diceva, piace a tutti. L'ho lasciata cantare per il riguardo di mio marito, che lui ci teneva tanto. Quando eravamo poco più che bambine, lei aveva un suo modo di portare il cappello, per esempio, un suo modo di portare i guanti, un suo modo di avere sempre i capelli arruffati. E devo dire con una sua fortissima personalità che se l'avesse qualcun altro imitato, sicuramente non avrebbe avuto quel successo che invece a lei tornava. Avete sentito Liliana Caselli, sorella di Caterina. Un'infanzia come le altre, fatta di sogni, desideri, progetti che si accompagnano alla dura realtà. La madre fa la magliaia. In famiglia i soldi scarseggiano e vanno guadagnati con fatica. Caterina spesso aiuta, insieme alla sorella, la madre nel suo lavoro. Terminata la scuola trova un impiego, ma è la musica la sua vera passione. Ivo Callegari è organista e leader nel complesso Gli Amici. La Caselli ha una bella voce, studia con passione e ben presto diventa una componente stabile del complesso. Comincia a cantare nell'intera provincia e impara a suonare il basso elettrico e la batteria. Ma all'epoca una donna musicista faceva un certo effetto. Ascoltiamo ancora Caterina Caselli nel programma Qualcuno mi può giudicare. Mio basso! Ecco! Il basso chitarra è Rosa Shocking, come potete ben vedere. Molto usato, guardate un po', ci sono tutto spelacchiato, ci sono tutti sembra che provenga dalla guerra del 15-18. Liliana andava a scuola, la più piccola, e lei era appassionata a lavorare di maglie. Caterina invece dipanava la lana, ma lei lo faceva malvolentieri. Quando la matassa era molto ingarbugliata, si muoveva il nervoso in lei e diceva «Io non farò mai la magliaia». Ti telefono tutte le sere, ma tu... Avete sentito Giuseppina Berselli, madre di Caterina Caselli. Nel 1962 Caterina partecipa alla sua prima competizione musicale, il Festival per Voci Nuove a Bellaria Igea Marina. L'anno dopo a quello di Castrocaro, dove canta una canzone di Françoise Hardy. La casa discografica MRC di Milano la nota e decide di produrre un brano simile nel genere a quello della cantante francese. Nel 1964 incide il suo primo 45 giri. Ti telefono tutte le sere. Le amiche mi hanno chiesto perché aspetto sempre... Castrocaro feci la versione in italiano di Tu les garçons et les filles, che è una canzone semplicissima, insomma, dove non ci vuole certamente un temperamento particolare per poterla cantare. Fui scelta dalla Peer Publishing e mi suggerirono di fare Ti telefono tutte le sere proprio perché io in qualche modo li indirizzai male, cioè con la mia scelta Tu les garçons et les filles, è evidente, ti telefono tutte le sere ma tu non ci sei, era molto simile, la direzione era questa, ma era ben lontana da ciò che mi piaceva, da ciò che volevo fare. Avete sentito Caterina Caselli. Beat, nel gergo strettamente musicale inglese, indica la battuta in levare della batteria tipica del rock. Il genere beat si diffonde in Inghilterra nei primi anni 60. Quando arriva in Italia, il paese sta vivendo un passaggio epocale della sua storia. Il boom ha trasformato la nostra società. Anche da noi si comincia a parlare di questione giovanile. Spesso l'atteggiamento degli adulti è di incomprensione e di condanna. E va così definendosi un mondo a sé che recide i legami con la tradizione, le norme e i valori. L'ondata beat contribuisce a rendere ancora più determinata la giovane cantante sassuolese sulla strada da scegliere. Si sente cantante da gruppo, conosce la musica e insieme agli altri componenti della band carica e scarica gli strumenti dal furgoncino col quale percorrono in lungo e in largo l'Emilia-Romagna.